Michael Matchin in production. Scrap fish on the beat. Baby, ascolta la mia voce, ascolta quel che dico. Cia! Ascolta la mia voce, ascolta quel che dico. Ascolta la mia voce, baby. Dirette dal mio cuore, arriva le parole per te. Dirette dal mio cuore, le parole per te. Guardami, guardami, ti corro negli occhi, dico, senza te sono solo un bimbo in castigo. TADB, il nostro grande sogno senza limiti, perché solo io e te in questa stanza del tuo amore mi avrò abbastanza. La tua importanza racconto in questa song, ti porterei dovunque, da Parigi, da Hong Kong. A come amore, la parola stessa, M come mia, se lo sai, principessa. O come ovunque, io ti seguirei, R di regina sulla terra, gli dei. E come estenuante l'attesa quando sei distante, canto per dimostrarti che davvero sei importante. Questo è poco ma sicuro, il tuo nome nel mio cuore è inciso, te lo giuro, ci rimarrà per l'eternità. Nessun avvenimento lo cancellerà, una catena di diamanti, i nostri cuori tiene uniti sei, i nostri corpi verranno divisi, il legame rimarrà. Non viene spezzato, sta nell'anima, non viene cancellato. E forse voi mi troverete banale, è solo un modo per dirle quanto vale. Ascolta la mia voce, ascolta quel che dico. Ascolta la mia voce, baby. Dirette dal mio cuore, le parole per te. Ascolta la mia voce, ascolta quel che dico. Ascolta la mia voce, baby. Dirette dal mio cuore, arriva le parole per ascolta te. La mia voce, baby. Dal primo sguardo di me hai fatto centro, il tuo ritratto è entrato mai spento. Impossessato di me, impossibile sembra, felicità esiste, baby. Rimembra, canto per la vita, per la mia vita, che tu sei da quando ti ho vista. Storia infinita, la nostra storia, fino all'età di due città, insieme rimarrà in memoria. Ed ora capisco, sei unica, questo non è rap, è musica. Ascolta il rito, ascolta la base, ascolta il testo e melodia, ogni frase. Ascolta quel che dico, ascolta la mia voce, sei l'unica, frattanto l'unica che mi piace. Forse voi mi troverete banale, io ve l'ho già detto, voglio dirle quanto vale. Yeah, per sempre è una parola grossa, ma non per noi, Moni, non dimenticarlo mai. Né dell'ora di un errore, nell'amore, da che l'ora del mio cuore. Oh, mio per fiore. Ora sentirei senza timore il tuo sapore, non mi rode dell'onore. Se per voi sono banale, solo uno devo dirle: ti amo. Ascolta la mia voce, ascolta quel che dico. Ascolta la mia voce, baby. Dirette dal mio cuore, arriva le parole per te. Dirette dal mio cuore, le parole per te. Ascolta la mia voce, ascolta quel che dico. Solo la mia voce per te. Dirette dal mio cuore, arriva le parole per che mai c'è nel production. Scrap fish on the beat. Yeah.